Conegliano, cuore della Inox Valley e del vino prosecco. In occasione del Festival delle Città Impresa, la città veneta, dalle mille aziende, bandiera soprattutto degli elettrodomestici bianchi, è diventata la culla dei servizi. È qui che nei tre giorni del festival dedicato al contesto industriale del Nord-Est, imprenditori e ricercatori hanno puntato l'attenzione sull'importanza dell'innovazione. Cosa si intende per servizi? Giorgio Brunetti insegna strategia aziendale alla Bocconi di Milano. Connessi essenzialmente, da un lato, all'innovazione che devono produrre nella loro business idea, no? Che le consente di avere un vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende che esistono nel mercato. Ecco. Un secondo tipo di servizio sono quelli che riguardano più l'organizzazione interna dell'impresa. Da quanto emerso dalle numerose relazioni sul tema, le aziende del Nord-Est sono ad un ottimo punto di innovazione, ma qualche carenza forse ancora c'è, continua Brunetti. E c'è anche una scarsità di comunicazione, no? Cioè, evidentemente, visto il Veneto sempre come la fabbrichetta eccetera, non immaginando che all'interno di queste realtà sono nate anche delle realtà di servizio, ecco, è indubitabile infatti questo. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Conegliano.